Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che ogni giorno in due edizioni vi racconta il paese, l'Italia attraverso la cronaca, la politica, il costume, lo spettacolo e molte, molte altre cose, approfondimenti e reportage. Ieri la Consulta ha dato il via libera ufficiale al referendum sul nucleare. Si vota dunque domenica 12, lunedì 13 giugno insieme ai quesiti sull'acqua e sul legittimo impedimento. Il reportage sul nucleare di Cristina Carpinelli. Contrari al nucleare. I promotori del referendum non negano la loro posizione netta e a chi dice loro che si tratta di una posizione ideologica non le mandano a dire. Vogliono che sia chiaro un doppio concetto: il nucleare non serve ed è pericoloso e in più costa tantissimo. Ci spiega così Angelo Bonelli, presidente nazionale dei Verdi. Ma noi Verdi voteremo e chiederemo a tutti i cittadini di votare sì al quesito referendario per fermare il nucleare, innanzitutto perché non esiste alcuna tecnologia perfetta che possa metterci a riparo dal rischio radioattivo. Inoltre l'energia nucleare è un'energia costosa, infatti non esiste nessun programma nucleare al mondo che non sia pagato dallo Stato e quindi dai cittadini. E in ultimo la gestione delle scorie radioattive è un problema irrisolto, drammatico, che rischia di gravare e determinare insicurezza nei territori e nella popolazione. L'energia nucleare è un'energia estremamente costosa sul piano economico. Voglio dare un dato: da quando è iniziato il programma nucleare in Germania, le 17 centrali nucleari sono costate ai tedeschi 150 miliardi di euro che sono stati pagati in bolletta. Questo vale in tanti altri paesi d'Europa, e invece ormai è chiaro, con la decisione presa dai tedeschi, dagli svizzeri e anche col dibattito che vi è in Francia di un referendum per far uscire la Francia anche dal nucleare, che il futuro ormai è basato sulle energie rinnovabili, sul risparmio, sull'efficienza energetica, che l'energia nucleare è ormai un'energia che appartiene al passato. Ecco, questo è un motivo molto importante, molto serio, perché se l'Italia dovesse decidere di entrare nel nucleare, entrerebbe nel nucleare quando tutti i paesi ne stanno uscendo, con un problema economico rilevante che verrebbe pagato dai cittadini italiani. Su questo argomento c'è poi tutta una serie di repliche che fanno i nuclearisti, e cioè quello che si propone, cioè le energie rinnovabili, non sarà comunque sufficiente al fabbisogno energetico nel caso italiano. Voi come rispondete? Ma è una grande sciocchezza, una grande falsità, una vera e propria mistificazione da parte di chi sostiene che le energie rinnovabili non sono il futuro, perché già ci sono esempi concreti. I nostri paesi europei confinanti, la Germania, che è un modello in questo senso, che ha deciso e sta realizzando un progetto ambizioso: nel 2050 la Germania produrrà l'80% di energia elettrica dalle rinnovabili, quindi quello è il futuro, un futuro che tra l'altro può consentire di realizzare milioni di posti di lavoro. Ad esempio in Italia, se si dovesse cambiare rotta, cosa che noi Verdi vogliamo assolutamente contribuire a realizzare, nei prossimi 10 anni sulle energie rinnovabili, sul risparmio e sull'efficienza energetica si potranno realizzare 2 milioni di posti di lavoro. Il punto però, guardi, è uno solo: è che in Italia c'è un oligopolio che vuole impedire l'innovazione, la modernizzazione del nostro sistema di produrre energia, perché è un controllo, è un sistema di potere che oggi si è basato molto su una tariffa pure estremamente alta che hanno pagato i cittadini. Ma i sostenitori dell'energia nucleare la pensano diversamente. Davide Tabarelli è presidente di Nomisma Energia. Sentiamo. Perché è sempre stato un problema il nucleare, anche prima di questa decisione. Fukushima ha imposto comunque un freno in tutto il mondo. Qua, tra l'altro, era più necessario e anche un po' più utile. Il pericolo qua è che si tenda a considerare il problema energetico come molto facile. È un problema che può essere affrontato tranquillamente solo ed esclusivamente con le energie verdi, che tra l'altro invece a mio parere possono fare poco. È necessario invece puntare un po' su tutto, con la consapevolezza che se non si fa nucleare si fa più gas che viene da aree un po' così instabili, oppure si fa più carbone che ha alte emissioni di CO2. Cosa ideale sarebbe fare un po' di tutto: carbone, gas, che ne abbiamo tantissimo, ma anche nucleare sicuro,